Vendo tutto di Matteo Caccia. Il telefono cellulare, la TV, le vacanze già prenotate e le guide per andarci, i quadri appesi alle pareti, i vecchi dizionari, gli oggetti regalati e quelli comprati, quelli ancora da mettere in vendita e quelli già all'asta. Tutto, vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato. Dopo 4 anni insieme mi ha lasciato. Capita, lo so, succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso. Mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita. Io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela. La vendita è aperta. Oggi vendo una valigia. A me piace la mia valigia. E questo è il punto. La valigia. Questo non ti serve. Scusa, non ti serve. Non ti serve. I cuscini per il collo li danno sull'aereo. Ecco, anche questo. Questo non ti serve, scusa, non ti serve. Non vi serve, lo sapete già che non vi serve. Sono le 16:06 a Milano, nevica che sembra di stare a Toronto o a San Pietroburgo e molti di voi in questo momento saranno sulle strade. Che nevichi oppure no, che siate al sud, al centro o al nord, è venerdì, è metà pomeriggio, molti hanno fatto la fuitina, per fuitina intendo non quella che si fa in coppia, ma quella che si fa prendendosi un permessino dall'ufficio prima, o molti semplicemente stanno tornando a casa propria. Comunque siete in macchina, se avete un auricolare magari siete anche sul treno, che ne so, aeroporto, però fondamentalmente siete in auto e ve ne state andando a casa o per il weekend, e lo sapete che quella cosa che avete nella valigia questo weekend non vi servirà. Voi lo sapete, avete fatto la valigia stamattina, magari ieri sera perché eravate più lucidi, e mettendo la roba per un weekend, alla fine un weekend quanto sono? 2 giorni e mezzo, ne ha due, facciamo 2 giorni, giusto? Quindi quello che vi serve lo sapete, sono con le 2 mutande, con le 2 calze, i pantaloni, una camicia, una maglietta, e poi avete messo quella roba che è quel libro in più che tanto non leggerete, oppure non studierete, oppure quell'aggeggio per i capelli che sapete che non vi servirà. Oggi vi do una mano, oggi vendo la mia valigia e vi aiuto a raccontarvi, fate un'ammissione di colpa su quello che avete in valigia e che questo fine settimana non userete ma non riuscivate a non infilarcelo. 800240024 per dirmi la voce, oppure 349-238-6666 per dirmelo con un sms. La missione di colpa l'hanno già fatto alcuni ascoltatori su Facebook, che hanno risposta alla domanda che cosa avete messo in valigia che non vi servirà. Paolo scrive: il costume da bagno, tanto un'oretta per la piscina si trova sempre, no? Mai usato. Elisabetta scrive: il sacchettino con la piccola farmacia di primo intervento, ormai ci sono farmacie dappertutto e non serve. Paola scrive: le mutande, ha ha ha, che non ho capito sinceramente cosa vuol dire. Paola, raccontaci, nel senso che non usi le mutande oppure banalmente ti fa ridere la parola mutande. E poi Andrea scrive: le lamette da barba. Non mi sono mai fatto la barba in vacanza nei fine settimana, eppure ce le ho sempre dietro. 349-238-6666, mi dite qual è quella cosa che avete in valigia in questo momento e sapete che non vi servirà. Oppure meglio, se siete in macchina, bloccati nel traffico o semplicemente in viaggio, 800240024, la vostra valigia nel bagagliaio e sapete che quella roba non la userete mai. Io invece sono qui per raccontarvi della mia di valigia, ok? È una valigia molto bella, è una valigia molto grande, è una valigia che di fatto non mi serviva perché la riempivo sempre di roba inutile, tipo la metà delle cose che ci infilavo alla fine non le usavo mai. È per questo che io la mia missione di colpa la sto per fare, le vostre le aspetto. 800240024, parliamo della mia di valigia in questo momento. Se siete pronti, avete voglia di vederla, radio24.it per sentire la sua storia. 3, 2, 1, via! La valigia. Valigia morbida marca Invicta, colore blu. Dimensioni: lunghezza 67 cm, larghezza 50 cm, profondità 22 cm. Dotata di 2 tasche interne, di cui una a rete, e 3 tasche esterne frontali. Può trasformarsi in zaino grazie alle cinghie nascoste o in trolley per via delle 2 ruote inferiori, 2 cinghie interne per l'ancoraggio del contenuto e 5 ganci esterni per mantenerne la forma. Tutte le chiusure a zip con possibilità di lucchetto. Capacità 60 litri, materiale nylon poliammitico. Valore commerciale 80 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800240024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. La mia valigia blu è splendida. Me ne disfo con grande difficoltà, perché con questa valigia si può partire senza pensare di dover tornare. È gigantesca. È blu, ha le rotelle e quindi si porta senza problemi anche quando è stracolma. È morbida, se uno la vuole portare come zaino se la può anche portare, basta che abbia delle spalle larghe. Questa è una vera valigia da viaggiatori serie moderni, non di quelle rosse di cuoio piene di fibbie che avevano i nostri genitori, non come quella marrone che mio padre trascinava in giro per la strada. Mi ricordo che la impugnava come con i tori nei rodei, come se la dovesse domare. Io non le ho mai amate in realtà le valigie, soprattutto da bambino, perché volevano dire che si andava via di casa e quindi mi facevano paura. Ora, la domanda giustamente sarà, ma come ti facevano paura, no? Se andavi in vacanza e non eri contento? Beh, a dire la verità no. Io a casa ci stavo proprio bene, non me ne sarei mai andato, nemmeno d'estate. Poi in vacanza bisogna farsi degli amici nuovi, cioè non è come a scuola che gli amici te li ritrovi scritti sul registro, no? E non devi fare nessuno sforzo per sceglierli. No, in vacanza la gente fa cose tipo giocare a pallone senza chiamarti, quindi devi essere tu ad andare a chiedere se gli serve un giocatore in più magari. Insomma, andare in vacanza è sempre stata una grande fatica per me. Ed è per questo che le valigie mi hanno da subito fatto scattare un riflesso pavloviano. Cioè, non appena le vedevo uscire da sotto il letto, perché le valigie sono sempre o sotto il letto o sopra gli armadi, insomma, appena le tiravano fuori, io cominciavo a sudare. Mi succede ancora oggi. Devo dire che sapevo che non era colpa delle valigie, se dovevamo andare al mare. E quindi per questo ho comunque sempre provato grande rispetto per loro. E poi vedevo che contenevano tutti gli averi della mia famiglia. Insomma, c'era un po' della nostra vita lì dentro, divisa per quattro chiaramente. La vita del papà, marrone pesante, la vita della mamma, rossa e ingombrante, e poi quella di mia sorella e la mia, in una borsa sola, blu e piccina. Come mio padre riuscisse a incastrare tutte quelle valigie nel baule della macchina rimane un mistero ancora adesso. Mi ricordo che sentivo lo stridore del cuoio tra l'una e l'altra e il rumore che facevano comprimendosi, ma alla fine non so come, si incastravano perfettamente. Per un po' di tempo ho creduto davvero che mio padre fosse l'inventore del Tetris. Ecco, questo è uno dei poteri misteriosi e affascinanti dei padri. Trovare il modo per far stare i bagagli nel baule della macchina. Come accadeva allora, tutt'oggi associo le valigie a qualcosa di prezioso. E non sono l'unico a dire la verità. Lo dimostra l'orrore che si dipinge sugli occhi di chi all'aeroporto vede girare il nastro trasportatore vuoto, senza il proprio bagaglio sopra. Tutti se ne stanno andando col loro tesoro fra le mani e tu rimani lì, nudo, senza la tua valigia che è stata spedita in Oriente mentre tu sei a Orio al Serio. E la sensazione è quella di una grande umiliazione, senza nemmeno ricordare cosa contenesse, magari calze, mutande, qualche maglietta, ma il fatto che da quel buco non spunti la tua valigia diventa una tragedia. Quanto peso diamo alle nostre cose? Certo che a pensarci bene, sto borsone della capienza quasi illimitata alla fine è stato un acquisto proprio sbagliato. L'avevo comperato per un viaggio in Messico e Guatemala e devo avere pensato che più si va lontano e più grossa deve essere la valigia, no? Mi sembrava logico, vado lontano, ho bisogno di tanta roba. E invece no. È sempre stata una zavorra inutile che mi sono trascinato in giro. Me la sono trascinata per mezza America, d'estate. Ecco, vi prego, non fate lo stesso errore. Se girate d'estate per il Messico, portatevi uno zainetto, niente più, ci sta tutto. Due ricambi, le medicine e il sapone di Marsiglia. Alla fine non c'è bisogno di nient'altro. Questa valigia blu è sempre stata troppo grande per i miei viaggi. Eppure sempre stracolma. Perché come tutti gli acquisti sbagliati va utilizzata, no? Anche se non è quello che ci serviva. Tipo, ho comprato una giacca della misura sbagliata e non la posso cambiare? La metterò lo stesso, per non dargliela vinta e non far vedere che ho sbagliato. Ho preso una bicicletta che mi fa venire la cervicale? Niente, la userò tutte le domeniche imbottendomi di antidolorifici. Con questa valigia morbida e capiente in fondo succede la stessa cosa che succede con tutte le cose che abbiamo. Ce le portiamo dietro per tanto tempo, senza capire se le desideriamo davvero. Come tutte le cose che ci dicono che fanno per noi, no? Macchine troppo potenti, troppe parole da leggere, troppi amici da frequentare, cibi da mangiare, posti dove andare. Ho visto l'altro giorno che c'è un libro che si chiama I mille luoghi da vedere nella vita. Ma, cioè, davvero mi vogliono far sentire in colpa se me ne sono rimasti fuori almeno 990? E invece no, niente, giù, cose nuove, compra, metti via, non buttare mai niente, così arrivi vecchio che c'hai sulle spalle un peso incredibile, che non hai nemmeno la forza di ricordare perché. E allora sì, faccio proprio bene a vendere tutto. Anche sta valigiona maledetta che ha trasportato di tutto. Vestiti, scarpe, cibo, salami, pezzi di arredamento, souvenir, racchette da tennis, scarpe, peluche, cuscini, cappelli, attrezzature da lavoro. La vita è come uno zaino. E io ne voglio uno nuovo. Più piccolo, più leggero e più prezioso. Mi mancherà questa bella borsona che ho contenuto la mia esistenza fino ad oggi. Ma nonostante tutto, nonostante il Guatemala, nonostante i misteri dei papà e il baule della macchina, questa valigia è in vendita. Il suo valore sul mercato dell'usato è di 80 euro. La base d'asta, qui, sono 99 centesimi. Se anche voi, però, oggi avete infilato in valigia qualcosa che sapete che non userete, 80024 0024. Such is the way of the world, you can never know. Just throw down my ace in the hole. In valigia metto sempre il completo e le scarpe da corsa in ogni trasferta di lavoro. Lo porto sempre con me e non vado mai a correre. Orlando invece scrive: metto sempre la picozza. Anzi, adesso ho messo la picozza che costa neve, mi sa che la perdo. E poi ancora, non io, mia moglie, chiaramente ci si giustifica. Per pochi giorni di vacanza, libri sufficienti per una full immersion di 2 mesi, per non parlare degli abiti. Chiaramente non utilizza mai. Giustificazione? Tanto li porta la macchina. Gianni da Brescia, 349-238-6666. La cosa che avete nel bagaglio in questo momento e sapete che non utilizzerete. Però 80024 0024, andiamo da Alessandro da Milano. Pronto Alessandro? Ciao. Ciao Alessandro, dove sei? In Slovenia adesso. Ah, adesso sei in Slovenia. Vado per il weekend. Senti, ma sta nevicando anche lì? No, però piove a secchiate. Ok, perfetto. Cosa ci vai a fare, scusa, nel weekend in Slovenia? Giusto per non farmi i fatti tuoi. Perché sono un pendolare, c'ho la moglie là. Ah, ok. Neanche in Slovenia, in Croazia. E tutti i fine settimana vai in Croazia? Bravo. Ma da dove, scusami? Da Milano? Da Milano. Perfetto, sei a metà strada tra un santo e un pendolare, oserei dire. Bravo. Senti, tu che cos'hai invece nella valigia che hai fatto qua? Io non ho nessuna missione di colpa, perché sono, siccome vado tutti i weekend, sì, ormai sono ottimizzato, cioè porto niente. Non porto più niente. Preferivo il porto niente, mi piaceva proprio tanto. Porto... Beh, però per forza Alessandro, perché tu c'hai 2 case praticamente. No, comunque al di là di quello, anche se vado via, sono veramente il jeans, la maglietta, lo spazzolino, una mutanda, una calza. L'essenziale. Se servisse qualcosa, compro il loco. Bravo. Senti, invece un po' di informazioni di servizio. Esattamente su che strada sei già in Slovenia in questo momento? Sì. Ok, quindi piove, il traffico è buono. Ma in Slovenia di solito non c'è mai nessuno. Ah, benissimo, e quindi chi se ne frega? Piove di solito quando tutta Europa fa bello, qua piove, se di là piove, qua nevica. Va bene. Va bene. Invece la notizia è che qui nevica, Alessandro, e lì piove. Fai buon viaggio. Io ero a Milano prima. Quindi se sei riuscito a uscire. Sì. Fai un buon viaggio, Alessandro. Grazie. Ciao, buona giornata. Ciao. Andiamo a Beppe. Pronto, Beppe? Ciao. Ciao, dove sei? In questo momento sono ad Asti, ma qui in Italia nevica tantissimo, ho lasciato la Russia questa mattina, un tempo splendido, maledizione. Quindi scusami, tu sei arrivato chiaramente in aereo dalla Russia e c'era bel tempo, quando è che sei atterrato? L'ho atterrato alle 2 a Malpensa. E non hai avuto problemi ad atterrare? Sono le 4:30, sono ad Asti, fai tu. Ah ok, ma le strade sono proprio messe male? Insomma sì, non sono bellissime. Ok, cioè no. Tipo velocità di crociera qual è in questo momento? In questo momento sono su uno svingolo, però non ho mai superato i 100, ma 60-70. Vabbè, ok, direi che è fattibile, non lo dico per me ovviamente, per le persone che devono muoversi oggi. Senti, dimmi invece qual è quella cosa che hai in macchina e che sai che non usi. Allora, io ho 2 cose, la prima è un ombrello che segue il mio trolley. E nel mio trolley da sempre, l'ho mai aperto, non l'aprirò mai, perché io non uso mai gli ombrelli anche quando piove, continuo a lasciarlo lì, non so per quale ragione. Ma perché, scusa, perché non usi gli ombrelli? Perché non me ne frega niente di bagnarmi, insomma, poi non ho occasione, okay, di camminare sotto la pioggia. E l'altro oggetto? L'altro oggetto sono decine di fazzolettini monouso, sai, quelli che ti danno sugli aerei, della Lufthansa, dell'Aeroflot. Ma sono quelli che ti rovinano le gengive, però, proprio definitivamente. No, ma quelli per le mani, che ti danno prima del pasto. Ah, i fazzolettini. Sì, fazzolettini. Li accumulo quasi ne avessi bisogno e continuo a accumularli, dovessi cambiare una gomma, ne ho decine, okay. Non li ho mai usati e probabilmente non li userò mai. Grande, no? Questa è esattamente la filosofia per cui cerco di far discolpare gli ascoltatori, la filosofia del non si sa mai, dovessi cambiare una gomma al fazzolettino. Beppe, grazie mille, fai un buon viaggio. Ciao, buona giornata. Andiamo a Cinzia, Trento, pronto? Sì, ciao. Ciao Cinzia, dove tu sei? Dove sei? Sei a casa o sei in auto? 30, nevica benissimo, bellissimo, bellissimo. Ma sei a casa quindi, Cinzia, sei tranquilla? Sì. Ok, però tu quando ti muovi hai sempre una roba che non riesci proprio a farne a meno. Perché il primo viaggio che ho fatto è stato un disastro. E allora, sai, per scaramanzia, dico, stavolta mi premonisco di una cosa che mi sarà utile contro l'avversità, invece non serve a niente proprio. Come dici te, sono delle cose che sono proprio inutili nella vita. Ed è un cornetto rosso che io lo metto sempre dentro una dentro la valigia del viaggio. Sì. E dico, questa volta mi andrà bene. E invece, allora adesso ho pensato che fosse inutile. E l'hai buttato via? Dopo che ho sentito la tua trasmissione ho pensato che fosse inutile, meglio che lo butti via. Ma l'hai già fatto, Cinzia? No, non l'ho ancora fatto. Fallo il prima possibile, anche perché credo che proprio sia quello che meni rogna a questo punto. Infatti, no. No, ma la prima volta, le prime due volte sono andata via senza, e per quello che ho detto, ma porca miseria. Chiaro, sarà, certo. Questa è scaramanzia pura, guarda, per cui sì. Chiaramente noi non ci abbiamo deciso che non ci crediamo, giusto? Anch'io. Brava. Anch'io. Cinzia, okay. Ti abbraccio, buona giornata. Ciao. Andiamo a Bergamo da Costantino, pronto? Sì. Ciao Costantino, sei in macchina? Sì, sono in macchina. Come sono le strade? Ma bruttissime, oggi sono veramente brutte e poi sai quando c'è appena un po' di pioggia, un po' di neve, tutti rallentano tantissimo e... Ma dove ti trovi, in autostrada o su una statale? Sono su autostrada, sono sulla A4, sto percorrendo un piccolo tratto della A4. Ma è percorribile quindi? Sì. Ok, perfetto. Senti, tu che cos'hai nel bagaglio? Io nel bagaglio sempre, le poche volte che vado in ferie perché non sono molto un abitudinario, però... Metto sempre, non so perché, un vestito buono. Metto sempre il vestito buono, non si sa mai. Cioè, il vestito della per vestito buono intendi il vestito della festa? Sì, la camicia un po' più bella, il vestito un po' più bello, la giacchettina, la piego per bene, la metto dentro. E ti giuro, non l'ho mai neanche scartata, roba da lasciarla proprio incartata anche per le prossime serie. Che potresti riportarla a casa, appendere all'armadio e rimetterla in macchina la volta dopo. Esatto. Ma scusami, ma perché non lo metti una sera normale, che c'hai voglia di uscire? No. Ma probabilmente è una cosa che non metto mai neanche a casa, cioè sono mi vesto abbastanza, diciamo, casual. Niente, cioè sta roba le donne che mi hanno accompagnato fino adesso hanno sempre messo anche loro un vestito buono, probabilmente anch'io copiando. Chiaro, è la filosofia del non si sa mai, Costantino, sì. È quella. Però mi prometti che o la prossima volta due cose, o non lo porti più oppure te lo metti. Ma scusa, parti col vestito la prossima volta, no? Sono cose che si fanno, tante volte non si riesce neanche a capire perché si fanno, però ci proverò. Costantino, ti ringrazio, continua il tuo viaggio e fai buon viaggio, vai piano. Grazie mille anche a te, ciao, buona giornata. Io ringrazio quelli che erano attesi, purtroppo non c'è più tempo per sentire tutti, però è arrivato il momento di sentire, visto che è venerdì e ogni tanto, soprattutto nei fine settimana, preferisco ricordarmela e ricordarvela. Questa è la lista dei miei desideri. Fare il bagno nelle terme di Nagano insieme ai macachi, scalare il Monte Rosa, attraversare l'Atlantico su una nave cargo, lanciarmi col paracadute da 6.000 metri, sposarmi a Las Vegas, non importa con chi. Giocare una partita a tennis con Nadal e batterlo. Portare a cena fuori Natalie Portman. Fare un viaggio in mongolfiera. Spaccare a pallonate tutti i vetri di casa dei miei e poi ricomprarglieli. Imparare a suonare la batteria. Incontrare Obama, Mourinho e il Dalai Lama. Fare un viaggio con la Transiberiana. Vedere una finale del Super Bowl. Vedere il Taj Mahal. Attraversare la foresta amazzonica. Vedere il deserto della Patagonia, quello del Gobi e quello del Nevada. Imparare il cinese, imparare l'arabo, prendere il brevetto da pilota e quello da sub. E poi imparare a camminare sul filo. Alberto della Spezia, metto il metal detector in valigia, che c'è sempre un tesoro da trovare. E Aldo invece scrive il libro di fisiologia che non studierò mai. Io ringrazio invece Laura Faggin, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi, Stefano D'Andrea e Paolino Corleoni. Voi godetevi un weekend più leggero, spero, del solito, e noi ci risentiamo lunedì. Lunedì avrò da vendere un nuovo oggetto, e questa volta non è un oggetto da poco, anche se non sono mai stati oggetti da poco, perché lunedì vendo il mio computer portatile. È un Macintosh 12 pollici PowerBook G4. Per quello dovete aspettare lunedì. Per la mia valigia invece potete andare sin da subito sul sito radio24.it. Mentre io vi ringrazio e vi raccomando, la mia valigia, che piena o vuota che sia, rimane sempre una valigia. Love, love, love.